English Bit di Giulia Crivelli. Black. 6 things to watch for on Black Friday. 6 cose da tenere d'occhio nel Black Friday. Si intitolava così un lancio dell'agenzia Bloomberg nella settimana del Thanksgiving, che cade ogni quarto giovedì di novembre ed è la festività più tradizionale degli Stati Uniti. Il Black Friday, letteralmente venerdì nero, è il giorno successivo, prima vera occasione di shopping natalizio in cui fioccano offerte speciali e sconti. Il nome è legato a un fatto economico. Si dice infatti che le vendite di quel singolo giorno segnino il ritorno dei bilanci dal rosso, l'eventuale perdita accumulata nei primi 10 mesi dell'anno, al nero, black, cioè l'utile. La parola che ci interessa è appunto black, e per una volta è usata in molte, anche se ci sono eccezioni, espressioni che possiamo tradurre letteralmente nella nostra lingua. Black eye è l'occhio nero, causato da un trauma, magari da un pugno. Black market è il mercato nero. Black sheep è la pecora nera. Black widow è la vedova nera, intesa sia come il poisonous, velenoso spider che spesso mangia il compagno, sia in senso figurato come una donna sospettata di aver ucciso uno o più mariti. Poi ci sono invece le espressioni che si traducono in modo diverso o non si traducono proprio, come blackout, che può essere usato anche dal punto di vista psicologico. She had a blackout and couldn't remember anything about the accident. Ebbe un'amnesia temporanea e non riusciva a ricordare alcunché dell'incidente. E notiamo qui il false friend accident, che significa appunto incidente, d'auto ad esempio, e non accidente. Black tie invece significa cravatta nera, ma viene usato tale quale negli inviti per indicare il dress code di una serata. In questo caso significa che è richiesto lo smoking per gli uomini e l'abito lungo per le donne. Blackmail non si può tradurre con posta nera, bensì con ricatto. Oltre che sostantivo è verbo, regolare. To blackmail, blackmailed, blackmailed. She blackmailed him for years by threatening to tell the newspapers about their affair. Lo ricattò per anni, minacciando di raccontare ai giornali la loro storia. Notiamo il sostantivo affair, che non significa affare, ma appunto storia, quasi sempre clandestina. Blacksmith, invece, è il fabbro, mentre blacklist è la lista nera. Anche in questo caso esiste il verbo to blacklist, regolare. She was blacklisted by all the major Hollywood studios because of her political views. Tutti i più grandi studios di Hollywood la inserirono nelle rispettive liste nere per via delle sue idee politiche.